collega che sicuramente ha uno stile tutto suo, che può essere magari criticabile delle volte, nel senso che è una persona che non ha mezze misure, però mi sembra anche che sia una persona che nel momento in cui ha un incarico lo porta a compimento molto ma molto spesso, e spesso volentieri sono anche compiti abbastanza complicati, quindi sinceramente non possiamo così divertirci a criticarlo per le sue mise che ormai hanno fatto storia, però credo che alla fine, come Marchionne mette un pullover, mette i Bermuda, insomma, sì. Quindi, con qualche leggera differenza. No, per l'amor di Dio, chiaramente ci mancherebbe altro, però da questo punto di vista, ripeto, è un Ti immagini se facesse tendenza Raiola? Tutti con i Bermuda, questo so. Io Pastorelli non ce lo vedo. Tutti i procuratori in Bermuda. Comunque è un personaggio, perché comunque se tu guardi, voglio dire, le sue interviste, le sue affermazioni, comunque creano interesse nella gente, quindi comunque a suo modo si è creato un personaggio, magari tra le cose neanche voluto.